l'altro Midran. Il Midran è nuovo, è ancora in vendita questo, sì, sul mercato. No, anche il mio, no, il mio è di nuova generazione, quello che ho. Ma non fa forte, mi Sandro Tigre, a qualche cosa mi ha sentito, anche se non mi sentiva forte, però mi sentiva. Ah, c'è bene, fratelli. Ah, c'è bene. Ciao Natalino, Franco, Gianni, Gianni, doppio Gianni, i due Gianni, vai il secondo Gianni. Eccomi, ciao Giulio, buonasera, ben entrato. C'era anche Marco, mi pare, in stand-by. Boh, non so se ancora l'ascolto. Avanti a chi tocca. Ciao Giulio, ben sentito, buonasera. Ciao Gianni, Marco è il numero uno come radio. Va bene, dai, ci sentiamo. Ci sentiamo bene, grazie a Dio. E voi come state? Tutti bene? Ciao Giulio. Ciao Franco. Salutoni, come va lì, in quei paraggi? Bene, bene, tutto a posto. C'è freschetto e con la porta aperta e si sta bene. Ho capito, vuol dire che sta tirando un pochino di aria. Allora, va bene così, non c'è male. Avanti Natali. Ciao Giù, ben entrato, buonasera. Buonasera Natali, tutto bene, sì. Saluti in casa. Vai Marco. Marco non ha gana, ricambiato Giù. Ok, grazie. Avanti Rubrofetta. Eccomi, eccomi. C'era anche Claudio, però era in veranda a consumarsi una birretta fresca. Magari ci sta ancora ascoltando, dai. Va bene, ciao Claudio, se stai ascoltando. Va bene, così almeno si disetta e si rinfresca allo stesso tempo. Marco, riprendi? Marco è assente, sta soffiando il fuoco. Avanti Gianni, doppio room. Mia, perché io basso sul cielo del radio? Basso del radio, che è più da basso? Cosa sei disetto? No, io non sto parlando di potenza, sto parlando di qualità. La radio di Marco per me è una delle migliori, se non addirittura la migliore. Io stavo intendevo quello Gianni. Ah no, pensavo come amplificazione. Sì, no, no, ma già è bella quella di Marco, senza ombra di dubbio. Appunto quello intendevo io, non è bombardata, è bella, chiara, proprio molto molto apprezzabile, almeno da parte mia. Poi chiaramente ognuno ha le sue idee e i suoi gusti e io lo rispetto, ci mancherebbe altro. Avanti Franco Di Sorso. Quindi io non sento più la mia radio, ci vuole buttata via. Va bene, grazie. No, nessuno ti sta dicendo che ci vuole buttata via, solo che a me non mi piace bombardata così al massimo. Ecco com'è, è bellissima la tua radio, fortissima, chiarissima e bellissima, però io in QSO preferisco quella di Marco, che è una radio rilassante, bella, chiara, corposa, al punto giusto, eccetera eccetera. Nessuno ti sta dicendo che non sia bella la tua radio è bellissima come sempre, lo sai benissimo, te l'ho sempre detto e continuo a dirlo, per cui va bene così. Rilancio di nuovo a Franco. Franco Di Sorso, vai. Capo, vabbè, Claudio l'ho avuta sempre così la modulazione, da quando lo conosco è sempre la stessa. Appunto, io non ho mai bombardato nessuno, non ho mai toccato niente, questa è la mia modulazione standard da 30 anni a questa parte. Poi se voglio uscire meno bombardato uso il barchino col microfono normale, non ci riesco, vedete me che non ci riesco, vabbè. Allora per non bombardarvi continuo a fare quello che stavo facendo. Ciao Giulia, ciao a tutti. Ok, ciao qua. Certo che sì. Te l'ho sempre detto, la tua radio è sicuramente la più forte in assoluto, non ci sono dubbi, la più curata senz'altro, però la più naturale nel vero senso della parola per me è quella di Marco, e si avvicina anche molto a quella di Roberto, anche quella di Roberto, però io devo essere sincero, preferisco quella di Marco, perlomeno con un certo tipo di baracchino, poi se ne uso un altro discorso, però se uno usa il 9009, mi sembra che sia, o 990 che sia, non lo so, quella è eccezionale per le mie orecchie, poi per gli altri non lo so. Va bene, avanti Rubro Fetta. A me sembra che in questa frequenza non ce ne sia uno che esca male, dai, usciamo tutti, chi più chi meno, ma usciamo tutti bene di radio, ci ascoltiamo tutti, dai. Certo, ma quello sicuramente, già, non ci sono dubbi. E chi è che può dire il contrario? Io non di certo non lo dico il contrario, però ci sono delle piccole differenze, perlomeno come gusto, poi ognuno, ripeto, a te ti può piacere un'altra radio e quella tua può piacere un'altra ancora, che la tua è bellissima, altrettanto bella, chiara, potente, non si fa, diciamo, desiderare da nessuno, ma è bellissima, indubbiamente. Io sto parlando a livello di QSO, da salotto sto parlando. A me piace quel tipo di modulazione di Marco, tutto lì. Poi il resto tutte belle, perché quella è Gianni il Profeta, fea, tutte sono belle, perché quella è Natalino, brutta, tutte sono belle le radio, assolutamente. Raramente c'è una radio che non va bene. Io intendevo così, io Gianni, non so se riesco a spiegarmi. Vai Gianni, io doppio ru. Sì, ti ho capito, dai. È una radio da salotto, quella di Marco, è brutto come di persona, è molto fedele, dai, come radio. Esatto, è una radio proprio naturale, no? Bella, potente, chiara, e soprattutto non è assordante ed è piacevole da ascoltare e da seguire anche per ore e ore. È lo stesso discorso, ripeto, anche quella di Roberto Quadrato, uguale, anche quella è eccezionale lo stesso come radio. Però premesso che tutti quanti abbiamo, o perlomeno avrete, io la mia non me la posso sentire, avrete una ottima radio, non ci sono dubbi, questo senz'altro. Poi chi è più forte, chi è più debole, questo non ha importanza, dipende dalla posizione, dipende da tante cose, dal tipo di radio, eccetera eccetera. Ma parlando a livello di salotto, ecco quello che voglio sottolineare, per me quella di Marco, per me personalmente è la migliore in assoluto. Marco, ci sei? Un attimo che mi allontano, riprendi poi giù. Marco si sta aggiustando la carpa. Ok Franco, d'accordo, siamo qua, dai. Riprendi tu Gianni di nuovo, dai, fai girare, che adesso ho parlato troppo. Adesso per vantaggio si sta mettendo la camicia e la cravatta e sta aggiustando la cravatta, dai. Cava cava, dai, vabbè, dai. Magari con 3009 la radio è quella che piace più a te, capito? Quando uso il 3009, adesso il 3009 gli ho messo un microfono amplificato di tipo nuovo, olandese. Va abbastanza bene, è molto fedele come radio. Sì, beh certo che sì, non ci sono dubbi, perché quando usavo il Galaxy con la Sadelta, capita, perché quella non era una radio bella, bellissima, non bella, bellissima, nel vero senso della parola. Era un po' squillante, però era bella, chiara, le parole venivano scandite in una maniera straordinaria, bella, bella, bella, insomma tutti bene, in poche parole, viva a tutti voi, avanti il profeta. Eia, sì sì, la media è molto alta Giulio, dai, la media è molto alta. Più o meno siamo tutti promossi con pieni fotti. Senza dubbio, non ci sono dubbi, certo che sì. Poi c'è anche un'altra radio straordinaria, bella, veramente, che mi piace moltissimo, ed è quella di Franco Ombra. Quella di Franco è lo stesso, è straordinaria, un'ottima radio, bella, bella, bella, molto bella. Mi piace veramente. Avanti, Natalì. Lo so, a te ti piace quella salottiera, io è perché non mi piace il microfono palmare, se no questo è l'apparecchio che usa Marco generalmente, ed è salottiera quella lì, questo è perché c'è l'MB-T4 e amplifica un po' di più. Beh, certamente sì, se dovessimo ragionare in maniera un pochino obiettivo, noi perché ci sediamo davanti alla radio? Per fare salotto, per distenderci, per rilassarsi un attimino, no? Dunque, se noi riceviamo una radio che non ci disturba nel lungo tempo che rimaniamo alla radio, è tanto meglio, almeno io la penso così. Ed ecco che io dico, quelle radio di quei volo in casa sono straordinarie, senza togliere niente a nessuno, per carità, nella maniera più assoluta, tutte bellissime. Vai Gianni il profeta, vanni Gianni Lucio Ferru. Eia, hai attaccato il 3009 per farti sentire come esci di radio questo, dimmi se ti piace. Mi piace moltissimo, addirittura prima dell'altra, premesso che l'altra è la più forte, ecco, mi piace questo tipo di modulazione, questi livelli, perché io sono anziano e dunque le mie orecchie ormai non accettano più certi rumori, ecco, mettiamola su questo tono, oh Gianni. Ti piacciono le cose in sordina, come diceva mia madre, metti la radio in sordina. Ecco, è una modulazione rilassante, bellissima anche questa, no? Non ci sono dubbi. vabbè, comunque andiamo avanti, dai. Non si offenda nessuno, per carità, perché non è proprio assolutamente il caso. Insomma, è la radio pessima, più pessima della frequenza è la mia, che ho la voce un po' coi toni alti, senza bassi, eccetera, eccetera. Avanti, il profeta. Eccomi. Marco adesso, ultra elogiato, adesso sta facendo un brodo di giuggiole e magari sta cucinando qualcosa, dai. Già c'ha le orecchiette all'ascolto, dai, sicuramente. Probabilmente il bel abbinamento tra il microfono e la qualità della radio fanno la differenza. Il microfono originale usa Marco, ha capito, solo che pesa un trono. Ce l'ho anch'io il microfono originale di questa radio, però pesa un trono a tenere in mano, mamma mia. E allora è per quello che io uso l'MB+4. Non avrà la stessa qualità di quella di Marco, giustamente, perché il microfono questo è amplificato. Ce l'ho anch'io il microfono che è a Marco, solo che pesa un trono e ce l'ha anche Gianni del Piorru, quello star, ed è del Superstar 3009, però guarda, è molto pesante, confermi già. E per forza dentro c'è un pezzo di ferro grosso, io l'ho aperto per togliervi praticamente quella gomma a piuma che soffocava un po' la radio, quindi ne ho messo una più fina e l'ho aperto per quello, e c'è un pezzo, è presente la lavatrice che c'ha il peso così, e così è chissù, c'ha il peso per tenerlo in equilibrio. Sì, ma roba da chiudi, pesa... È per quello che io non lo uso, perché è troppo pesante. Io ho pensato che avesse un circuito di preamplificazione, invece no, è proprio un pezzo di ferro all'interno pesante, capito? Pesante, perché io l'ho aperto, l'ho smontato per togliergli quella cosa che li metto davanti alla capsula, soffocava la radio, aveva ragione Marco, gli ho messo quella a velo, fila fila, e adesso va bene. Lo credo. Ma con quel pezzo di ferro pesa un trono. Sì, è vero, è un bel pesante, tanto è vero che a volte mi cade da mano a me. Io praticamente nello sportello di un mobile che mi ha fatto Giulio, dove tengo gli apparecchi, ho messo il coso per appendere i microfoni e praticamente di solito lo appendo lì il microfono, ma a volte quando ce l'ho in mano mi scivola quello lì perché è pesante. E purtroppo devo avere il tunnel carpale e mi rivarà tutto. Sì, infatti. E anche io devo avere la stessa cosa, addirittura mi si molla la portante secondo che microfono è. Quello là, come si chiama, quel Proxer che ho io, se non tieni schiacciato, come molli poco sgancia subito la portante. Beh, anche io ce l'ho il Proxer, ce l'ho il DM1000 della Proxer. Il DM1000 è l'unico che mi è rimasto, gli altri li ho tutti venduti, regalati e fatti, ne avevo un me, ne avevo comprato 4 o 5 e poi, perché ho visto che andavano bene, e poi uno me l'ha chiesto gufo, e gliel'ho dato ancora in scatola, mai aperto, e gliel'ho venduto. Un altro l'ho regalato, insomma, mi sono spariti quasi tutti. E quello che mi è rimasto gli ho rifatto, il difetto che c'ha quel microfono che c'è finito, il Puffini, e praticamente quando tu vai a chiuderlo, se si pestano un pochettino chiudendolo, ti si spaccano immediatamente e poi si risaldano anche questi fili qua, sono giusti giusti, quando tu vai a aprire il microfono sono giusti giusti e ti si staccano. Allora cosa ho fatto io? Me li ho tutti rifatti, li ho messo fili più lunghi, più grossi, non eccessivamente grossi, però un po' più grossi, e adesso va benissimo. E io avevo una carcassa di microfono di Galaxy al limite, l'ho regalata gatta, perché sennò quella lì me la facevo per il 3009 e avrei avuto il microfono da palmo più leggero, il suo è troppo pesante, anche per quello non l'ho messo in macchina, per quel motivo, perché c'ha il microfono troppo pesante e poi ho mal ragione anche l'apparato che è grande. Te ne regalo uno io di Forestirolo. Come dice lei? Te ne regalo uno io di Forestirolo. Ehi, arriga, arriga. leggero. Dai, vado a prepararmi, devo prendere aereo adesso. Questo che c'è alle 7 oggi. Vabbè, dai, ci sentiamo dalla macchina magari. Ciao, ciao. Ciao Gianni. Tu non ti credi, che dici? Ti posso pigliare in mano il suo microfono di Rugoso, di Ru 2009. Cazzo, non so quanto è pesante. Anche quello del vecchio è un po' pesante. Infatti io non lo uso mai, uso il Tame più 3 o l'MV più 5. Va bene, dai, continuate, Giulio riprende, fai girare, sto facendo cose. Qua. Bene, bene. Ciao Gianni, intanto se stai uscendo, ci sentiamo alle prossime. Sì, Natalia, io oggi non sono con un batti, oggi ne ho qualcuno in più, ma a livello sempre di emologato, per cui forse mi senti anche meglio del radio, perché sicuramente se c'è più segnale c'è più radio, almeno penso che sia così, il microfono è sempre lo stesso, per cui va bene, sono contento, dai. Avanti Gianni, il profeta. Ehi, ehi, sì, adesso Gianni passerà in barra mobile. Allora, il microfono che ho io del Jopix, che praticamente è quasi il gemello del Superstar, a parte il frequenzimetro, al contrario dei vostri, è veramente leggerissimo. A livello di plastica, di struttura, non sembra robustissimo, però già suona bene, devo dire, dai. Ehi, magari ha la stessa capsula del 3009 che ho io, solo che il microfono va un pezzo di ferro dentro, già è mano come il microfono, è grande, quello palmare intendomi, il suo originale, però è anche pesante molto. No, quello che ho io l'ho smontato per vedere le connessioni, per fare un altro cablaggio, è assolutamente vuoto, proprio una biuma. E io ce l'avevo una carcassa di quelle di microfono di Galaxy, era giù rigarata, mi potevo fare il microfono per il 2009. Bene, bene, vediamo un po' se rientra Marco. Marco, ci sei? Boh, io Marco stasera ancora non l'ho sentito. Vabbè, dai, tutto a posto. Gianni è uscito, Claudio è indaffarato, tu Natalino, lo stesso, suppongo che stai usando pochi watt, stai usando, è una radio abbastanza tranquilla, no, non c'è problema. Io, come ti ho detto, sto usando a livello di omologato, va bene così. Questa è la prima volta che ho tirato su un watt, da un watt l'ho tirato su di un paio di watt ancora per arrivare a livello di omologato, e vedo che sta andando bene. Sto controllando se scalda, perché questo era un nuovo apparato, per cui sto facendo tutti i collaudi necessari. Funziona bene, non riscalda, va benissimo, non c'è problema. Riprende Natali. Ehi, sto usando il 3009 io, 4 watt c'ha, solo che ci ho attaccato l'MB più 4, la tavola almeno non me lo devo dire in mano, mi sono ragione del suo. Sì, no, va bene, va, non, non c'è problema, va benissimo, veramente. Dobro fe, aiuto, raccontati qualche cosa. Ehi, aiuto, no, adesso sto usando la... Sto usando con la potenza bassa e un microfono palmare classico, normale, dinamico. Ed era il microfono di quella radio che avevo recuperato dalla camper, della Sashi. Ti devo dire che rispetto alla qualità costruttiva del microfono in Superstar, questo materiale è decisamente migliore, è proprio bello solido, anche il tasto del PTT è bello. È bello serio, sto uscendo con circa 2 watt, tutto qua, questa è la mia situazione attuale. Ok, sta andando benissimo, sei intorno a 9,5 o Gianni, per cui va più che bene, no? La radio è splendida, per cui no, non c'è niente da dire. 9 più 5 di segnale, stando a questo strumento, non so quanto sia affidabile, comunque così leggo e così ti sto dicendo. Bene, Meda, sì, ogni tanto li alterno giù, uso un po' questo, un po' il Jopix, che dovrebbe essere il clone del Pluto, dai. Più o meno mi è stato detto così. E niente, tutto qua. La piccola stazioncina si fa sempre sentire. Certo, sì, adesso lo rimetto a uno, ecco. L'ho rimesso al minimo, ma mi sentite lo stesso. Vai Natali! Mi sentite? Sì, che c'era un break sotto. Avanti, ci sentiamo, avanti. Sono importati i lacchieri, mi sentite? Sì, che ci sentiamo, vieni avanti. Buonasera, come mi ascolti? Ti ascolto discretamente. Ti ascolto bene, dai, diciamo che ti ascolto bene, non molto forte il segnale, però ti ascolto bene. Avanti, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Sono Frank. Natali, non ho capito il nome. Chi è? Tu hai capito? No, manco io l'ho capito il nome. Sono Frank. Sei Frank, così hai detto, Frank. Copiato mi hai? Sono Frank. Io ti sto copiando, ma se tu non scandisci bene il nome, non si capisce quello che stai dicendo. Sono Frank. E appunto, ti ho risposto, se sei Frank, ti ho chiesto, adesso me lo stai confermando, va bene così. Sono io, Giulio, e poi c'è Natalino e Gianni. Vai per chi vuoi. La Natana, oggi compito, vai un profeta. Eia, ben entrato l'amico Frank, mi è sembrato di copiarlo, giusto? Confermi? 9,10 Radio 5. K di positivo. Le tue coordinate quali sono? Sono col Portiatile a Pini. Sì, dove ti trovi più o meno, a grandi linee? A Pidriassi. Di Pidriassi, così è? Papatango. Ah, ok, bene Meda, con un portatile. Sì, ti dicevo, adesso non ho sbirciato lo strumento per darti un rapportino. Se vieni avanti provo a farti un controllo, dai. Ok, prova. Come mi senti? Fai un altro passaggio. Come mi senti ora? Qua arrivi Santiago 7, Frank, la radio è un po' bassina, sicuramente dovuta anche al microfono del portatile. Comunque qua è il Santiago 7 e Radio 3, dai. Va bene, grazie. Figurati, avanti a chi tocca. Cazzo, lo sentivo anche io, che a portatore lo sento sempre basso. Figurati a Eugenio come lo sento, se a questo lo sentivo così. Ha detto che era adibito, così ha detto Gianni, io ho capito così. affermativo, Papa Cango, Libidriasi. E appunto, con un portatile da Libidriasi, e vabbè, se a Libidriasi già sto scendo bene, no? Non c'è problema. Va bene, dai. Comunque, io ho ridotto tutto, adesso scendo giù e mi mangio un gelato, poi se ci siete ancora rientro, dai. Io vi ringrazio per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Franco, se sei ancora d'ascolto, Franco di Sorso, poi c'è Frank da Libidriasi, ciao Claudio, saluto a tutti. Io ascolto Finalino, Gianni lo profeta, tuo di Natalino soprattutto, e poi chiudo. Vai Gianni. Ciao Giulio! Ah, è meglio fresco, vai Gianni. Ciao Giulio! Bene bene, da. Ciao Giulio, dai. C'era forse c'era Tino che ti ha sovramodulato. Ciao Giulio, buona serata e alle prossime. Avanti Tino. Volevo salutare Giulio che se ne stava andando. Ciao Giulio, vai. Sono andato per Alghero, cambiato direzione. Ok, ciao Tino, ciao, ben ascoltato. Dai, sto chiudendo, vado a rinfrescarmi, vado a mangiarmi un gelato. Ciao ciao, ci sentiamo. Ti prendi pure. Ciao Giulio. Buon gelato, buon tutto. Riprendi già. Doppio rum ci sei. Manco doppio rum, vabbè, me ne vo anch'io. Vabbè, ciao Natalì, ti ascolto bassi, dai. Deve essere la mia ricezione comunque. Sono strada 4 corsie per Alghero. Io ti ascolto fortissimo qua, ti ascolto Tino, ti ascolto fortissimo adesso. Adesso ti ho sentito bene, dai, adesso che era un punto negativo, ho superato Bancali già da qualche chilometro, ecco. Io ti ascolto veramente bene qua. Meglio così, vuol dire che già sta andando l'attrezzo. Vabbè dai, me ne passo in QRT e devo fare qualcosina qua. Ci sentiamo alle prossime, ciao Tino. Grazie per essere entrato e le quattro chiacchiere. Ok, alle prossime. Buon tutto. Andale, ciao Tani, ciao, ci si riascolta, tante cose belle, ciao ciao. Tino, cosa ci fai nella 4 corsie? E te l'ho detto, ciao già, ma tu sei passato? Oh! C'ho questo qua, davanti io, ciao, boh, non ho capito. E a chi? Boh, ma sei, non lo so, se ti prendi sì. E allora, boh, vedi, spingomi. E spingi, perché da me non c'è più nessuno dietro, forse stai sbagliando qualcheduno. Ciao Tino, no, sono a casa. Io sono a 4 corsie, però non vedo segnale che... a parte che lo segna male, dai. Capo, dai. Va bene, dai, buon proseguo, buon viaggetto Alghero. Ciao, fra, ciao. Today we are unboxing and undertaking a mini review of the President McKinley CB radio. Ecco. 10, c'è nessuno? Sento 10. Avanti. Chi sei? Carlo Barramobile. E beh Carlo, come andiamo? Bene, bene, sono zona cimitero vicino a Predaniedda, quasi Altani. Ma sei andato a lavoro o stai rientrando? No, sto andando, il turno di notte, 21.05. Ah, buon divertimento allora, vabbè, già sei al fresco di lì dentro, dai, non devi stare fuori immagino. Vabbè, stasera speriamo faccia fresco. Mi pare che non devi lavorare mercoledì la massima è prevista a 38 gradi all'ombra. Caspita, pensare che siamo ancora a maggio e sta già facendo caldo. Oggi, scusa un attimo che stavo facendo una manovra, oggi ho detto sono andato a Borore da Albino a portare la radio. C'era un caldo in quella piana di Tossido lì dopo Macomer, era una cosa impressionante, 33 gradi c'erano. Ma io domenica sono andato a Oristano perché c'era una mostra a scambio di auto moto d'epoca, ricambi a Torre Grande, e poi ho fatto un giro di lì, ma era un caldo quel pezzettino nella piana che hai detto tu, perché poi c'è un'umidità quando vai verso Tarro, su quelle zone di Cabra, cioè che c'è quell'acqua, quelli stagni eccetera, ma un'umidità allucinante, l'aria condizionata, se non l'aria condizionata muri. Lo immagino, ma anche oggi ha picchiato forte, quella zona era tutta umidità, c'era una foschia, si vedeva verso Ottana, quella zona lì era, boh, non si capiva niente, ma era caldo malsano comunque. Allora, Ottana, 3 anni fa ero in macchina, c'erano 45 gradi camminando, non fermo, camminando, c'erano 45 gradi e col camper, c'erano 45 gradi, vabbè, non avevo l'aria condizionata, in quel pezzettino lì, infatti le cavallette, la tana delle cavallette di la spiana di Ottana, è il punto più caldo della Sardegna. Sì, l'avevo sentito, quella piana è micidiale, l'estate è una sorta di deserto sardo, mi sa. Sì, è così, c'è una temperatura, la più alta temperatura rilevata in Sardegna è stata rilevata lì, nella piana di Ottana. Ho capito, sì. E adesso io ho praticamente il turno stanotte, poi smonto e poi lunedì sono libero e poi la prossima rientro di mattina. Ci attendi un attimino, ho messo un'antenna verticale nuova, però per le bande HF, però volevo vedere se accorda negli 11 metri, se mi dai un minutino provo con l'altra radio, mi dici come mi ascolti. Ecco, così adesso sono quasi da Conforama e ti ascondo, vedo il segnale fondo scala qua. Tu sei quasi 9 più 20, adesso metto l'altra radio, ma un secondino dammi. Sto usando l'antenna, quella più lunga, un'antenna della Midland. No, ma qua non accorda. Mi ascolti? Sì che ti ascolto, ma mi sa che andavi meglio con l'altra, Robè. Sì, non riesco a abbassare le stazionali. Nata, questa va dai 10 metri, questa antenna sì, dagli 80 metri, ma non è fatta per andare negli 11 metri, dai. Sono le stazionali altissime, come non detto. Ah, ho capito. E allora, sì, se hai le stazionali alte, mi sa che è meglio cambiare. Questa è un'altra musica? Decisamente sì, questa fa pompare la radio proprio. Vabbè, ero con un'altra radio, non è adatta per andare in coso, in AM con la radio lì, ma la laterale non ce n'è, è una bomba proprio, non perché ce l'ho io, però ho detto anche ad altri radioamatori, dicono, a livello di modulazione è da paura. Mi danno dei rapporti di controlli impressionanti, ragazzi, dicono complimenti con la radio. Come il 440 e il 430 e il 140 in AM, in 27 vanno benissimo, altre radio più, anche più costose non rendono in AM. Infatti anche quella lì, pur essendo una radio 940 a 4 volte come costo del 440 non va bene, però in banda laterale non ce n'è. Ma ti stai aiutando o sei sempre pulito? Ti stai aiutando o sei pulito? Ma fallo quando, se vuoi che ti ascoltino, oppure mettere quel piccolo preamplificatorino, quel transistor, cos'è, un 747 che è amplificatore, e poi fai, se vuoi un consiglio, di fare un'alimentazione separata proprio diretta alla batteria con un interruttore, in modo quando lo vuoi accendere lo accendi separatamente, li metti il fusibile naturalmente senza sbagliare, e poi dove fai il collegamento tra l'amplificatore e la radio, li fai una specie di spirale e li metti uno di quei toroidi, ce l'hai presente quei toroidi? C'è propagazione, mi ascolti ancora? C'è propagazione, ti tiro fuori però ogni tanto ti scavalcano. Stavo dicendo, usa carro grosso, bello, e soprattutto una bella massa metti, anche aggiuntiva la puoi mettere, metti una diretta dalla batteria e poi una massa aggiuntiva dalla carcassa dell'apparato, trovi un punto, li metti una vite autofilettante, un muloncino e te lo fissi, così ti eviti tutti i problemi di ROS. No, sei sempre 8, il segnale è buono, però mi arrivano picchi di 9 di propagazione, non so chi sia, non ho neanche capito. In questo periodo, quando era la propagazione, arrivano segnali. L'altra sera rientrando a Freddanieta stavo parlando con Franco e Di Sotto e stavo dando fama in macchina, eh. Anche adesso ti hanno scavalcato. Ma c'è molta propagazione, forse perché tutto il caldo che sta facendo. In continente ne sta scendendo l'aria. Stamattina stavo parlando con degli amici furi, ma proprio temporali fortissimi. Molto pericolosi, butta giù una quantità d'acqua impressionante. Già lo so, poi si scontrano le perturbazioni, il caldo e il freddo, soprattutto nelle Alpi, su, quando ci sono le montagne, di lì ci sono le perturbazioni, il caldo con freddo fa dei grandinate da paura. Come sapevamo, sono arrivati a 4 ore. Sei quasi 9. Allora qui si stava meglio dell'Alpa, questa è più lunga. Più di un metro penso. Adesso sei 9 con un peluzzino di più. E a me mi ascolti sempre bene, mi immagino. A 7, come eri all'uscita di Sassari, sei qua. Il segnale tuo è a tavoletta. Zona di Alghero io lavoro bene, dai. Magari sono un po' critico verso la zona di Castelsardo, quelle zone di lì, magari l'antenna mia è un pochettino sacrificata, la direzionalità dell'antenna, però verso Alghero mi ascoltavano tutti. Lo so, poi questa antenna, io ho segnali molto alti, però si porta presso molto QRM. Devo fare una modifica, vabbè, ma non so se la faccio, non ne ho voglia. Un choc si chiama, una specie di bombina, si mettono 12 spire di RG58 tra l'antenna e il cavo, in un diametro di 10 cm. L'ho fatta oggi per l'antenna verticale, però per le bande HF, e ho visto che funziona bene, detto da un amico, un ingegnere, che si occupa di costruzione di antenne, veramente bravo. Si deve calibrare, se usi 58 ne bastano 12 di spire, dentro a volte dentro un tubo di 10 cm di diametro, se invece usi 213 riduci a metà, ne bastano 6 di spire, però è molto, molto rigido, diciamo un po' complicato da tenere fermo, infatti io l'ho tenuto su una specie di tubo, dai, l'ho messo così, l'ho avvolto, prima gli ho messo del nastro, quello telato, nella base, per bloccarlo, poi come l'ho avvolto gli ho buttato l'altro, in modo che rimanga tutto perfettamente, sembra una spirale di tipo, come si chiama, non so se l'hai mai visto, quei boiler, quelli scaldatori di aria per produrre acqua calda, i boiler che hanno queste specie di avvolgimento. Lo metti dall'antenna alla radio, no, serve per i rientri, non per le stazionarie, per i rientri di RF, ti protegge la radio e ti toglie tutti i coso, la sporcizia, dai, per dire se ci sono delle antenne vicino, televisive, pali di luce, cose del genere, telefoniche, c'è le telefoniche, ti riduce molto, è una specie di filtro. Carlo, ti sei abbassato a 7, purtroppo adesso stanno arrivando le propagazioni, ti sto perdendo, non so se tu mi ascolti ancora. Sì, si può fare anche con i toroidi, è un pochettino più costoso perché i toroidi se li fanno pagare, però in ugual modo si può fare i toroidi, macchina per dire come usare i toroidi. Sì, S8 sei qua, no, adesso questo passaggio, purtroppo ti ascolterei sempre bene, ogni tanto ci parlano sopra e qualche passaggio l'ho perso, comunque sino adesso più o meno ho capito quello che hai detto. Sì, se lo vedi il mio è perfetto, proprio bello, fatto bene, perché se usi quel nastro telato lo appoggi sopra il tubo e poi li avvolgi dalla parte adesiva, lo metti, come li avvolgi il filo sopra, rimane incollato di lì, ti fa un bel lavoro, poi lo chiudi, lo lasci un po' lungo e lo chiudi in modo che rimanga tutto unito e poi li fai tutti i giri di nastro in modo che sembra tutto sigillato, sempre S7 e più qualcosa, dai, no, ti sto ascoltando, non c'è problema. Il problema, ti ripeto, quando partono gli spagnoli, credo che siano spagnoli, non lo so, un po' ti schiacciano. Sì, infatti, mettilo però con un interruttore separato, in modo che quando devi attaccare, tac, lo metti in una posizione strategica, in modo che non si veda, in modo che quando ti serve all'occasione ti fai sentire. Usa cavo buono, non fare economia di cavo, se devi fare il lavoro fallo una volta solo, bello grosso l'alimentazione, anche se riesci a farlo anche un po' lontano, con un giro in riverso, il negativo, mi per dire, uno lo passa da una parte e uno dall'altra parte, in modo che non si incrucino, perché te lo ripeto, succedevano quando facevamo gli impianti in serio in macchina, che mettevi gli amplificatori, ti amplificano anche la mondezza, per dire se c'è qualche disturbo, qualche relè o qualcosa della macchina, ti entrano dentro nel cavo, per cui bisogna fare in modo che ci siano meno problemi possibili. avete un bel fusibile calibrato per l'alimentazione del coso, del finale, così sei tranquillo. Adesso ti sto perdendo, sei sceso a sì, il segnale, vediamo se mi ascolti ancora. Sì, l'ho fatto rialzare due mari, sì, ti ho copiato. Sì, adesso sei, sicuramente dovresti fare il rettilineo della Sele Mosca, lì forse ti ascolto anche meglio. Carlo, questo passaggio quasi niente, purtroppo ci sono gli spagnoli che ti sovrastano, 6-7 e i segnali li superano. Comunque dai, ti saluto, tanto sei quasi arrivato, ti auguro un buon lavoro, un buon tutto e una buona domenica per domani. Ciao ciao 7-3, alle prossime. Ciao di nuovo, ciao ciao. Gute Großbrust, wahrscheinlich, ja, das ist schon, na gut, also mit, dass ich hatte, zwei alkoholfreie Küsse, jo, die habe ich heute Morgen beim Einkaufen, denke ich hier, oh hier, Küsse, Küsse Radler, so Dosenbier, aber ich habe dann gemerkt, das ist alkoholfrei, aber ist egal, das schmeckt wirklich gut. Nicht genau, ich kenne mich.